9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 25 di marzo. Il miagolio del gatto di oggi è un miagolio che dichiara un singolare stato di malessere mio personale, a dirvi la verità. Io ho pensato per diversi giorni questa puntata di non farla, perché mi chiedevo se non esagerassi io di fronte a me stesso. Vi spiego perché. Oggi parliamo della riforma sanitaria passata alla Camera dei Rappresentanti qualche giorno fa negli Stati Uniti, e di questa riforma voi avete trovato molto, anzi moltissimo, insolitamente molto rispetto alla disattenzione che c'è sulla stampa italiana, sui nostri media. Perché dico malessere? Perché giorno dopo giorno, da mesi io avevo seguito le diverse versioni che si sono succedute nel congresso americano di questa riforma. Lo sappiamo, è una riforma in cui sin dall'inizio, programmaticamente in campagna elettorale, Obama ha puntato molto come uno dei tratti più distintivi della necessità dichiarata e avvertita di cambiare volto all'America rispetto a quella ereditata, rispetto alla tradizione istituzionale degli stessi Stati Uniti. Ed è stata una riforma che in passato ad alcuni suoi predecessori aveva prodotto grandi insuccessi. Ricordiamo solo quando Hillary, all'epoca First Lady, con Clinton intraprese questa strada e poi fu poi rovinosamente costretta a fare marcia indietro, e questa cosa costò moltissimo alla popolarità sua personale, ma anche a quella della presidenza per un po'. Ebbene, perché dico malessere? Perché giorno dopo giorno, oltre a tutta questa attenzione, ho trovato una convergenza di valutazioni tra il trionfale e il più che trionfale, da punti di vista diversi. La scrivevano così dal Manifesto al Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, e il mio malessere derivava dal fatto che, avendolo seguito per mesi ed essendomi fatto delle idee concrete sul contenuto, non sul significato politico, capivo il significato politico che venisse spiegato agli ascoltatori e ai lettori dicendo la presidenza Obama si rivela in grado, dopo la sberla nel Massachusetts, dopo tanti punti di popolarità persa, di riprendere in mano l'agenda del paese. Vedete che riesce a convincere i riottosi malgrado i 40 congressmen democratici che non hanno seguito, passa, quindi insomma riprende forza. Ma il mio malessere derivava dal fatto che non trovavo quasi mai descritti i contenuti della riforma, e soprattutto non vi trovavo indicato quelli che sbaglierò se in Italia venissero proposti di analoghi, troverebbero con ogni probabilità, penso io, gli stessi trionfali sostenitori della riforma Obama tra i più intransigenti critici. Ora, naturalmente, fine della mia introduzione, i due sistemi sono molto diversi, non intendo fare paragoni impropri tra il sistema italiano della sanità e quello americano, perché siccome è una trasmissione, quella di oggi, che vuole approfondire i contenuti, non faremo improprie commissioni. Negli Stati Uniti, a differenza che da noi, il diritto alla sanità non è un diritto costituzionale, ed è per questo che 13 stati stanno pensando di impugnare questa riforma, non solo il Texas della destra creazionista, come oggi scrivono i giornali italiani. Sono parecchi gli stati che su questo hanno uno dissenting opinion costituzionale, quindi non è un dovere pubblico per lo Stato, perché nella tradizione americana alla sanità come alla previdenza ci pensano gli individui, ed è quindi il mercato a trovare una soluzione tra i costi e le prestazioni. E invece la riforma Obama interviene esattamente su questo punto, non per fare la sanità pubblica, ed è questo che piace molto ai commentatori italiani, che dicono finalmente un passo verso l'Europa del welfare, l'Europa bismarckiana, l'Europa, c'è chi dice socialdemocratica, che ci dice semplicemente sociale. No, la sanità resta tutta privata, perché Obama ha dovuto rinunciare a quella che era la public option, cioè il fatto che poi ci fosse anche un'assicurazione pubblica. Resta con un'assicurazione private, le quali, questo è il mio giudizio, sbaglierò, vengono salvate da una crisi debitoria che si stava prospettando per loro molto grave. Ci si prospettava un debito nei loro confronti per effetto dei programmi sanitari per crisi pari a 6 volte il PIL USA, queste sono le stime che giravano. Si copre in buona sostanza il loro debito in cambio di cosa? In cambio della garanzia pubblica, in cambio dei soldi del contribuente e delle imprese, che inizieranno a pagare tasse per questo, però in cambio le compagnie private devono accettare che, in quanto a premi pagati dai loro assicurati, in quanto a prestazioni, quanto ad aumento delle loro tariffe, sarà la politica, ed è la politica a deciderlo. Quindi resta un sesto del PIL americano, la sanità di oggi, resta privata sì, ma una sanità privata con prestazioni, costi e finanziamenti stabiliti dalla politica e garantiti dal contribuente e dalle imprese. Questa è la riforma in buona sostanza che a me sembra più significativa, ma ripeto e concludo, se in Italia il ministro Tremonti fosse andato in Parlamento e avesse proposto una riforma decennale di questo tipo, gli avrebbero detto che si stava comprando i privati per assicurarsene il sostegno e non avrebbero detto che era una grande riforma per la sanità pubblica. Se fosse andato in Parlamento e avesse detto questa riforma in 10 anni costerà 900 miliardi, però guardate che 150 li fa risparmiare, e ci fosse stato un ufficio del bilancio della Camera dei Deputati che gli avesse detto, ai parlamentari, guardate, i conti di questo ministro ci sembrano un po' strani perché a noi non tornano i 150 miliardi che lui dice che verranno risparmiati, e secondo noi potrebbero non esserci, e soprattutto ci potrebbero essere 600 miliardi di costi in più, e soprattutto dal 2018, quando scatterà il pieno rimborso pubblico delle tariffe farmaceutiche, nessuno è più in grado di dire quale sarà il costo di questa riforma. Io sono convinto che molti di coloro che hanno inneggiato in Italia, se fosse stata questa la reazione dell'ufficio del bilancio della Camera alla proposta di un ministro Tremonti, avrebbero detto: il ministro Tremonti è meglio che vada a casa, cari deputati, non la votate, cari contribuenti, meglio non fidarsi. Potrei continuare molto a lungo con esempi di questo tipo, ma preferisco fermarmi qua. Non perché mi paga il Partito Repubblicano Americano, né perché ci tengo in particolare a pensare che Obama sia un presidente cattivo. Al contrario, la grande speranza che ha animato gli americani per farla finita con la gestione Bush era sotto gli occhi di tutti. Quello che mi preoccupa è solo di capire bene di cosa si tratta, senza dimenticare che l'America è avviata a più che raddoppiare il debito pubblico, dal 41% lasciato da Bush 43esimo a oltre il 90% secondo le della stessa amministrazione con Obama, e che con una riforma di questo tipo che mette sotto cosa politica un sesto del PIL e potrebbe costare parecchi punti di PIL in un decennio e oltre, questo ci riguarda con un'America che a quel punto ha un debito pubblico, non dico italiano, ma praticamente oramai simile, se si somma tutto questo alla fine di questo tragitto. Allora dico, occupiamoci in concreto di che cos'è questa riforma, dopodiché decideremo più liberamente se considerarla la grande svolta o se considerarla invece un abile marchingegno, perché ripeto, il più dei costi, e cioè dei contribuenti, si vedranno solo dopo l'eventuale rielezione di Obama nel 2012, mentre nel 2012 c'è l'estensione della copertura, dal 2014 arrivano le nuove tasse per le piccole e medie imprese e per i contribuenti, tasse che li colpiranno sul loro reddito prescindendo da come si sono coperti negli anni per sé e per la propria famiglia da strumenti di polizza, perché saranno costretti a pagare solo per il loro reddito, e voglio vedere poi milioni di americani come la prendono, e questo scatta dal 2014, mentre invece il pieno ripiano pubblico a carico degli contribuenti e delle imprese per le prestazioni farmaceutiche, quello scatta addirittura solo dopo il 2018, cioè anni dopo. E anche questa non sarebbe stata considerata una furbata un po' indegna nel nostro paese? Ma può essere che mi sbaglio. Questi i miei interrogativi, ora mi taccio e vi presento i nostri ospiti. Allora, abbiamo innanzitutto collegato con gli Stati Uniti Michele Boldrin, lo conoscete, è direttore del Dipartimento di Economia alla Washington University in St. Louis, autore tra gli altri di Voltremont, istruzioni per l'uso, e il bellissimo libro di cui abbiamo parlato insieme a lui, che vi ricordo sempre di continuare a leggere. Buongiorno e grazie per l'ora improbabile con cui accetta il collegamento a Michele Boldrin. Buongiorno. Allora, abbiamo poi Roberto Tremonti, istruzioni per il disuso. Ecco, sì, esatto. Questo io oramai uso esattamente, per far ridere, uso esattamente Voltremont invece che Tremonti. Tremonti, istruzioni per il disuso. Per i finanzieri in ascolto, riportate al ministro che questo è il termine giusto. Lo dico perché abbiamo avuto battute su questo tema. Poi abbiamo collegato Roberto Perotti, che insegna economia politica alla Bocconi, che ha scritto ieri sulle 24 ore a proposito della riforma. Professor Perotti, buongiorno. Buongiorno. E Guido Moltedo, scrive su Europa, è capo relazioni esteri di Europa, coautore del libro Barack Obama, la rockstar della politica americana. Posso chiedere a Perotti, che ieri ne ha scritto così, insomma, abbastanza, molto positivamente, perché pensa che almeno alcune delle mie osservazioni possano essere eccessive, infondate o ingiuste dal punto di vista italiano ed europeo? Forse ci dobbiamo soffermare solo sulla cifra politica di questa riforma, ma nel merito, nel contenuto, se lei pagasse le tasse in America e fosse già coperto da un'assicurazione, cosa ne penserebbe? Beh, ovviamente non sarei contento, ma le tasse sugli individui saliranno solo sui redditi sopra $200,000, che sono circa il 2% della popolazione. Teniamo presente che negli ultimi 10 anni le tasse di qualche individuo sono scese molto di più. E insomma, fare una riforma che porti dentro il 10% di quelli che della popolazione americana o più, non può, difficilmente potrebbe essere a costo zero. Però secondo me questo non può essere l'unico elemento di giudizio su questa riforma. Secondo me bisogna riconoscere che tecnicamente, insomma, per un anno sono andati avanti a dibattere, hanno cercato, pur tra mille inevitabili controversie, di trovare la soluzione meno dirompente al problema. Quello che mi ha colpito è che secondo me l'hanno cercato in buona fede. Una delle cose che secondo me noi europei non riusciamo a cogliere in questo è la componente morale di questo. Cioè Obama e Nancy Pelosi secondo me avevano una forte spinta morale, che ritenevano il loro dovere di fare questa riforma. È sempre molto difficile imputare le vere motivazioni politiche del rischioso, ma la mia impressione è che dietro di questo ci sia un grosso impulso morale che spesso per noi europei, che siamo più cinici, è difficile riconoscere. Iniziano ad arrivare reazioni di ai nostri ascoltatori imprenditori che dicono: ma come più tasse per le imprese piccole e medie? Ripeto, sopra i 30 dipendenti inizia a partire una nuova tassa, sopra i 50 dipendenti una più significativa. Lo dico perché gli ascoltatori qui dicono: come, abbiamo letto sui giornali che ci saranno sgravi fiscali per le aziende per permettere di avere più liquidità. Esempio concreto di come ci siano forse le idee un po' confuse sui contenuti di questa riforma. Boldrin, lei invece di là che ne pensa? Non ne penso molto bene. Ciao Roberto, ma le cose che hai appena detto mi sembrano veramente improbabili, almeno viste da qua. Non voglio nemmeno commentare sull'aspetto morale. È un'ottima operazione politica. Obama fa un'operazione politica, vende politicamente assieme a lui la Pelosi di essere riusciti a portare a casa una legge, fanno la finta di aver risolto un problema, non ho risolto nessun problema. Il problema vero della sanità americana è il seguente: in parte sono i famosi tra 12 e 35, lì dipende dalle stime, no? Se volete ci mettiamo a discutere, ma è una questione complicata, non so se va bene per la radio, alle 9:20 in mattina, quanti sono quelli senza assicurazione sanitaria. Comunque facciamo pure finta che siano 35. Quello è un problema. Il problema vero è che gli americani spendono il 16% del loro prodotto interno lordo, quasi 17%, per avere dei servizi che alla fine, come risultati, danno una situazione simile a quella che so della Francia o dell'Italia, un po' meglio dell'Italia, ma i soldi fine quelli sono. Il problema vero è quello. Questo problema, la riforma approvata ieri e che adesso il Senato ha modificato, non so se avete visto. Sì, sì, quindi dovrà essere rivotata. Che dovranno tornare indietro, vabbè, questa cosa andrà avanti ancora un certo periodo di tempo, non è finita, comunque non importa. Questo problema non solo non lo affronta nemmeno, lo peggiora. Perché l'unica cosa che questa riforma fa è non cambiare di un epsilon l'offerta, ossia la struttura dell'offerta dei servizi sanitari in questo paese. E l'unica cosa che fa è trasferire a mezzo di tasse, quelle che menzionava Giannino ed altre, una cosa pari a naso a un 2% del prodotto interno lordo addizionali per sussidiare la domanda di assicurazione sanitaria da parte di coloro che in questo momento non la stanno comprando. Quindi l'economia elementare suggerisce che questo porterà certo un aumento della quantità offerta, ma soprattutto un aumento dei prezzi. Sì. Io mi ritrovo in questo giudizio di Boldrin, può essere che sbaglio, chiedo anche a Guido Molteddo. Vogliamo fare un po' troppo i conti della serva e non è questo quello che bisogna giudicare in una riforma sanitaria, quando c'è già una parte così rilevante dell'economia nazionale che va in un settore di questo tipo e quindi la sua sostenibilità, i suoi conti dovrebbero essere una componente fondamentale nel giudizio. Che dice Molteddo? È un po' voler fare i conti della serva? No, niente affatto, non sono i conti della serva, perché tanto è vero che si hanno messo tanto tempo per varare questa legge proprio perché hanno fatto... È stata una questione anche di conti, dei costi, è ovvio che questa è la parte principale del discorso. Ma io vorrei dire che questa è una soluzione americana a un problema americano, Quindi in quel contesto va visto. Ora io sono d'accordo con quello che tu dicevi all'inizio, che no, però Guido, in tantissimi hanno scritto: ah, finalmente l'America si avvicina al modello europeo e abbandona questa illusione che il privato e il mercato e l'individuo possano dare la risposta a ciò per cui non serve il mercato, ma serve lo Stato, e l'individuo è indifeso darwinianamente, ma serve la collettività e la solidarietà pubblica decisa dal pubblico. Io questo è quello che ho visto, cioè una specie di senso trionfale per cui gli americani la piantano di dirci che l'individuo è mercato, quando io poi vedo che, come ha detto Michele, lì l'offerta rimane privata, con la differenza che gli si mette prezzi, tariffe e sussidi decisi dal pubblico, cioè dalla politica. E penso a che cosa in Italia avremmo pensato se qualcuno avesse detto qualcosa di simile. Gli avrebbero detto lacche delle assicurazioni private, o no? No, il problema è l'analogia che si può fare è che adesso c'è gli Stati Uniti, che con la Turchia e il Messico, tra i paesi OCSE, erano i tre che non avevano una copertura universale, una copertura sanitaria universale. Adesso gli Stati Uniti è alla strega dell'Europa da questo punto di vista, ma la copertura universale è stata raggiunta, tra l'altro non è proprio universale, perché sono esclusi ben 11 milioni di immigrati che non sono ancora cittadini americani, che lo saranno probabilmente in futuro, e questo sarà un ulteriore discorso da affrontare, tra l'altro. Guido, tralascio anche su questo che cosa avrebbero scritto se lo avesse proposto qualcuno in Italia i tanti trionfali difensori di Obama, perché anche questo mi darai atto che non è proprio così secondario. Chiusa parentesi. Secondo me però c'è un travisamento sulla figura di Obama in Europa e in Italia in particolar modo. Obama è tutt'altro che non è ideologico nell'affrontare i problemi, è un politico che cerca di risolvere i problemi nel contesto dato, e questo secondo me poi è ammirevole di quello che lui è riuscito a ottenere con questa riforma. Cioè lui ha proposto agli elettori, e per questo è stato votato, è una delle ragioni per le quali è stato votato, che avrebbe messo mano alla riforma sanitaria, e questo ha fatto, e l'ha fatto nelle condizioni date, operando e usando tutte le leve a sua disposizione per raggiungere l'obiettivo, quando tutti lo davano ormai per politicamente morto. Io questo vedo innanzitutto. Poi, dopodiché, se si vuole assumere Obama come un campione della sinistra europea, secondo me questo è assolutamente fuorviante. Esatto. Nulla. Va bene, ma io su questo sono molto d'accordo. Allora facciamo un po' un secondo giro per spiegare meglio a chi ascolta che cos'è questa cosa della copertura e questa polemica che in Italia e in Europa ha tanto attenzione sul fatto che c'erano milioni di americani, di cui si spiega agli italiani, che più o meno farebbero la fine di morire per strada senza cure, perché questo è ciò che passa alla gente, che negli Stati Uniti se tu ti senti male e vai in ospedale, loro la prima cosa che ti chiedono è: mi fai vedere quanto paghi con la tua assicurazione, altrimenti ti cacciano per strada. Beh, però se sei malato negli Stati Uniti non ti assicurano. No, io voglio sapere, Guido, questa cosa che si ripete incessantemente, e in quale cavolo di Stati Uniti avviene? Perché quelli no, che conosco è una cavolata. Ok, e allora però mettiamo a verbale che è una cavolata anche questa. No, però vabbè, cosa c'entra? Però è vero però che se tu appartieni a una classe media e non hai i soldi per acquistarti un'assicurazione, corri invece quel rischio che tu hai detto. Casomai il miserabile, il pezzente, invece che l'ubriaco, l'homeless, probabilmente riesce a essere ricoverato in ospedale, perché rientra tra quelli coperti dal Medicaid, e invece la persona che è stata licenziata da una fabbrica o da un ufficio non ha la possibilità di comprare un'assicurazione, è scoperto, questo tu lo sai. Sì, per carità, esiste, ma nei famosi 30 milioni di cui poi chiederò a Michele Boldrini dopo la pausa adesso la pubblicità di ridirci qualcosa come la pensi, ci sono alcuni milioni, non pochi a dire la verità, esattamente i più maschi degli anni che hanno tra i 25 e i 40 anni, di quella classe media lì, una classe media che per ampia parte non rientra tra coloro che pagano un cent di tasse federali, perché questo è il sistema fiscale americano, che a me non continua a non sembrare così male rispetto al nostro, e che tra non voler fare i conti di lungo medio periodo, scegliere consumi piuttosto che risparmi e consumi differiti con le polizze eccetera eccetera, hanno deciso di regolarsi così. Su quelli arriva il trasferimento a loro favore di risorse sanitarie da le classi più anziane, perché di questo si tratta, visto come vengono indicati i risparmi, nei loro confronti e copertura coattiva coperta dalle imprese. Imprese che in molti casi negli Stati Uniti, per chi ha esperienza negli Stati Uniti, quelle piccole e medie, decidevano anche volontariamente di dare una parte superiore al payroll, cioè l'equivalente dei contributi obbligatori, contrattando con i loro dipendenti o offrendoglieli, e che di fronte al fatto che adesso si troveranno invece imposte obbligate che scattano al 2014, secondo me nella maggior parte dei casi diranno: col cavolo che io posso fare l'una e l'altra cosa. Può essere che mi sbaglio, ma gli Stati Uniti che conosco io sono questi concretamente. Quelli che vedo descritti sui giornali italiani sono dei posti, come dice talvolta il nostro ministro del tesoro, dove gli anziani vengono mandati per strada a mangiare il Kit Kat, sue parole testuali. Boldrin da una questione di fondo di questa, di come funziona la sanità in America e degli interventi correttivi di questa riforma. Qualunque siano i giudizi, avete visto che abbiamo giudizi diversi, e il mio coincide molto con quello di Boldrin, però lo ha diverso ancora. Moltedo ci ha invitato a distinguere, però riconoscendo che molti dei luoghi comuni che vanno per la maggiore sulla stampa italiana sono o sbagliati o infondati. Allora, domanda a Boldrin: in che cosa questa riforma cambia davvero l'impostazione di fondo per cui è l'individuo a pensarci ed è il mercato a regolare l'equilibrio tra i costi e le prestazioni come vengono offerte? Come cambia davvero questo, su questo punto di fondo? Okay, non cambia niente, esatto. Di fondo. Posso fare una precisazione? Certo. Però? Questa cosa, i mercati bisogna sempre qualificarli con degli aggettivi. Il problema vero del mercato americano della sanità, sia dal lato dell'assicurazione ma soprattutto dal lato dei servizi ospedalieri e medici, è che è un mercato monopolizzato, e su questo ci ritorno. Quindi, c'è una differenza fra i mercati: non sono tutti buoni, certo. O meglio, alcuni sono peggio degli altri, alcuni sono migliori degli altri, certo. I mercati competitivi con libertà di entrata sono molto migliori di mercati altamente monopolizzati. Il dramma della sanità americana è esattamente questo, è che è una sanità a metà privata, metà è pubblica, completamente pubblica. Gli Stati Uniti spendono in percentuale del PIL per vecchi e poveri e i loro militari e veterani esattamente quanto l'Italia spende in percentuale del PIL per tutta la sanità, di tutti, privata e pubblica. Meglio che questa cosa sia chiarita. Quindi metà della sanità americana è gestita privatamente, però purtroppo per una serie di ragioni legali e storiche di regolamentazione, dal lato dell'offerta c'è un monopolio, questo è il vero problema. Cosa fa questa riforma? Questa riforma da un lato estende un sistema pubblico che esiste, si chiama Medicaid, per i più poveri, alza la soglia di reddito. Qua gli italiani verrà da ridere, la soglia di reddito verrà alzata a un certo punto fino a $80,000, cioè quindi il sistema della sanità per i poveri negli Stati Uniti arriverà a riconoscere come poveri i signori che guadagnano $80,000 all'anno, va bene, e parte di questo riceverà il servizio attraverso Medicaid. Un'altra fetta, che è la pezzo legislativo di fondo, è introdurre l'obbligatorietà dell'assicurazione, esattamente come è obbligatorio avere l'assicurazione minima sulla macchina se la conduci. Questo diventerà lo stesso il caso negli Stati Uniti, quindi tutti gli individui, non so bene come li controlleranno poi, ma questa è un'altra questione, infatti tutti discutono su come si farà questo, devono avere un'assicurazione sanitaria. Si creeranno dei mercati strani, anche questo non è chiaro come si farà, in cui coloro i quali in questo momento non hanno copertura sanitaria in forma assicurativa accederanno per acquistarlo, e se hanno dei redditi inferiori a cifre anche sostanziali, anche qui non è ben specificato in realtà, riceveranno dei sussidi pubblici. Questi sono i cambi. Al lato dei cambi vi sono tutta una serie di garanzie, di favori ai grandi monopoli del sistema sanitario americano, che sono l'American Medical Association, che dice i medici e soprattutto gli ospedali, le assicurazioni metà-metà, anche le assicurazioni vengono fuori abbastanza bene direi, ma non sono le privilegiate in questo giochetto. Poi ci sono ovviamente queste cose che ovviamente i nostri amici sinistri italiani faranno molto piacere, che Obama, al fine di guadagnare i voti che gli servivano, ha promesso che farà un executive order per impedire che i fondi federali vengano usati e ovunque si pratichi l'aborto. E infatti questo è stato poi uno dei giochetti che si era messo. Barack Obama è un grande politico, non c'è dubbio. Ora il problema è che significato vogliamo dare e che valenza vogliamo dare alla parola politico. L'uomo è cresciuto a Chicago e certe cose si fare molto bene. Sì, perché è una città in cui, diciamo, la politica è abbastanza abile nell'arte. Ha imparato da Daley come si fa politica, non c'è dubbio. Grande scuola. Quando Boldrin si riferisce al fatto che c'è la parte c'è un'offerta monopolistica, nella riforma ci sono anche alcuni aspetti, per esempio per guadagnarsi con abilità politica, come diceva Boldrin, per esempio il consenso dei farmaceutici, con la riforma si pongono dei limiti alla reimportazione di farmaci con molecole del tutto equivalenti dall'estero, e quindi ovviamente si terranno sui prezzi e si fanno contenti le farmaceutiche americane. Ora, io dico questo perché, come vedete, sono critiche che dal punto di vista di chi vuole un mercato che funzioni davvero, non monopolista, non sono critiche dicano viva il mercato, perché il mercato piace, come dice Michele, quando è in condizione di funzionare, ecco. Ma quando invece la riforma per comprarsi il consenso dei farmaceutici è fatta così, l'avete letto questo sui giornali italiani che questo è un aspetto fondamentale per ottenere il consenso dei farmaceutici? Secondo me non lo avete letto. E allora, come vedete, stiamo accumulando un bel po' di esempi. Torno da Roberto Perotti, che so sensibile e attento perché è un uomo dei numeri, lo conosciamo da anni e lo stimiamo tutti quanti. Allora, tutti questi esempi che stiamo facendo, in qualche misura, non avrebbero dovuto indurre a un qualche trionfalismo di meno? Però l'esempio specifico che ha fatto sui prodotti farmaceutici non è esatto, nel senso che era stato proposto qualche mese fa di permettere l'importazione, sì, di, e poi per evitare di inimicarsi delle grandi case farmaceutiche è stato tolto questo tentativo di riforma. Tutto questo, diciamo, fa parte della politica, però secondo me, e qui non credo di dire niente di nuovo, di praticamente intelligente, è una questione di realismo politico. Secondo me Michele ha ragione quando dice che questa riforma non cambia il lato dell'offerta. A parte il fatto, bisogna intendersi cosa si intende per offerta, perché cambia qualcosa in termini, per esempio, con questi exchanges, questi scambi centralizzati che dovrebbero essere introdotti fra qualche anno di assicurazione, anche se non è chiaro se funzioneranno o come funzioneranno. Però è vero, in generale non cambia tanto dal lato dell'offerta, ma questo secondo me è esattamente quello che Obama voleva fare. Ha capito subito che non poteva farlo, perché la riforma Clinton è spandita esattamente perché la prima cosa che hanno fatto è cambiamo tutta l'offerta. Facendo questo si sono inimicati tutti. Obama ha iniziato esattamente dicendo io non voglio cambiare l'offerta, che secondo me non andrò da nessuna parte. Questo secondo me è il punto fondamentale della riforma, e una volta che si parte da questo punto, che è stato vincente perché alla fine lui è riuscito dove Clinton non è riuscito, secondo me si capiscono molto delle cose che sono state fatte. È stata un'operazione di equilibrio, di realismo politico, 16 milioni in Medicaid, che è il sistema che già esisteva pubblico, 16 milioni arrangiandosi un po' fra incentivi alle persone, incentivi alle imprese, penalità alle persone che non si assicurano, arrangiandosi come si può, però è stata una questione di realismo, secondo me, e alla fine è stata vincente. Beh, naturalmente, se sia vincente o meno vediamo quando arriva il midterm e anno dopo anno come reagiscono gli americani. Nella comunicazione è vincentissima, sembra cambiare assolutamente il segno politico della presidenza rispetto alla crisi che dopo l'elezione di Massachusetts era evidente, ed era evidente nei sondaggi. Sentiamo qualche telefonata. Riccardo da Catania, come la pensa? Che impressione ha, Riccardo? Buongiorno. Deve abbassare la radio proprio che ce l'è. Sì, subito. Buongiorno, devo dirle che l'apprezzo molto come giornalista, ma oggi non sono d'accordo, nel senso che sono d'accordo con l'ultimo intervento. In effetti Obama non ha detto altro che di voler estendere il sistema che c'era a un maggior numero di cittadini, non ha mai parlato di una sanità pubblica come quella a cui siamo abituati in Europa, ma semplicemente appunto di consentire a un numero maggiore di soggetti di avere una copertura assicurativa che, diciamo, in America ricordiamoci anche che il costo della sanità, se non hai la copertura, per moltissime persone è veramente insostenibile, perché ne abbiamo tanti esempi anche, insomma, da film, abbiamo visto, cioè io mi ricordo un film di qualche anno fa, mi ricordo era il titolo, dove addirittura il problema di fare un'operazione alla prostata, un pensionato che era padre di un poliziotto, insomma, era un problema perché non gliela volevano consentire e non avevano le risorse per fare l'operazione alla prostata, quindi non stiamo parlando di grande, altissima chirurgia, ma cose così un po'. Quindi in effetti Obama non ha mai detto, anche perché poi gli Stati Uniti è un paese dove la parola socialista viene quasi presa come un insulto, cioè mai ha detto di fare una sanità pubblica, ha sempre detto questo, estendere il numero di soggetti che possono godere della copertura assicurativa. D'accordo Riccardo. Riccardo, io le ricordo che nella riforma Riccardo la public option c'era. L'hanno dovuta levare dopo le proteste, ma c'era la public option, cioè il fatto che non ci fosse solo l'iscrizione obbligatoria alle assicurazioni private con metodi di sussidio, trasferimento di contributi e tasse ai bilanci delle assicurazioni private, ma ce n'era una anche pubblica. L'hanno dovuta ritirare, quindi attenti a dire l'amministrazione non ha mai parlato di una cosa pubblica. L'amministrazione ha a lungo parlato, come nella proposta Hillary. Pelosi era per questo, si è battuta perché rimanesse fino alla fine la public option, e poi l'hanno dovuta ritirare perché era evidente dai sondaggi come stava andando. Però questo per dire e per ricordare anche qui giornalisticamente i fatti. Gianmario da Roma, prego Gianmario. Salve, io volevo solamente dire una cosa, non sono d'accordo con ciò che sostiene Perotti, magari è un qualcosa di insignificante, però anche le assicurazioni private in Italia non sono disposte a sottoscrivere coperture a chi è già malato, per cui ecco, non è una caratteristica solo degli Stati Uniti, ma anche in Italia funziona così. Cioè, io non riesco a capire di questa riforma negli Stati Uniti come funzionerà il sistema, cioè come si può porre ad un'assicurazione di accogliere persone che hanno già dei problemi sanitari, cioè si snatura completamente la natura stessa della copertura assicurativa. Lei si sta esponendo a reazione di tutti coloro che l'accuseranno di essere cinico. La risposta è che l'obbligo che viene posto nella riforma a non negare più copertura a chi ha patologie gravi, come avveniva prima, per quello che dice lei, perché espone l'assicurazione a rischi maggiori, e cioè a pagare poi prestazioni superiori ai premi. Faccio presente che in Italia esistono interi comparti di assicurativi in cui questo è avvenuto, per esempio nel 2009, per la stessa Generali, per dirne una, da bilancio, sono andato a guardare ieri. Questo viene introdotto nella riforma americana stabilendo che a questo obbligo faccia fronte infatti poi trasferimenti di denaro eccetera eccetera alle assicurazioni medesime. Questo è, cioè, nel senso che si introduce il principio, perché poi si limita la libertà privata delle assicurazioni in cambio di tutta una serie di sostegni e sussidi. Eccoci tornati in studio. Maggior parte dei messaggi che arrivano, gli sms, sono in totale disaccordo con me e con le critiche. Dicono che noi dimentichiamo cosa voglia dire essere scoperti, avere dei figli scoperti, perché non ci si può permettere che abbiano un'assicurazione. Dicono che facciamo le critiche in nome del mercato, ma perché ci dimentichiamo di dire che la sanità tutta pubblica è come diritto, funziona meglio, è più democratica, e che in questo gli Stati Uniti rappresentano, dice un ascoltatore, un esempio intollerabile di paese che è egemone nel mondo ma è superato nella storia dall'inefficienza del suo modello, nella finanza come nel welfare. E infatti il dibattito è anche su questo, per carità. Allora, abbiamo ancora un ascoltatore, Antonio dalla provincia di Potenza. Prego Antonio, lei come la pensa? Io la penso come lei, praticamente. La penso come lei per una ragione molto semplice: frequento gli Stati Uniti per lavoro, ci vado spesso, ho tanti amici, migliaia di amici. Non c'è tutta questa nostra mentalità italiana, non europea, un'altra roba. Noi italiani non siamo europei per mentalità. La mentalità italiana della critica a tutti i costi al sistema americano è assolutamente assurda, sotto tutti i punti di vista. Guardi, nel sistema americano io non ho mai visto nessuno andare in un pronto soccorso, e frequento gli ospedali americani, ripeto, per lavoro, e essere trattato così: dammi l'assicurazione, assolutamente. Si fa l'intervento e poi successivamente si vedono tutte quelle che sono le procedure legate all'assicurazione. Poi c'è da dire una cosa: ci scandalizziamo tanto delle assicurazioni, Noi in Italia l'assicurazione la paghiamo non direttamente, diciamo, ma dalla busta paga o dai redditi che una persona ha. Quindi voglio dire, il sistema italiano, tra l'altro, è uno dei peggiori sistemi al mondo. Questo è il punto, tra i paesi civili cosiddetti. Perché? Perché costa tantissimo, ci sono problemi procedurali per quanto riguarda le acquisizioni di servizi del sistema pubblico italiano, i farmaci costano il doppio rispetto a tutti i paesi civili del mondo, perché nascondono ovviamente dei costi incredibili, la professione medica è una professione chiusa, con numero chiuso all'università, quindi non c'è concorrenza tra i medici. Questi sono argomenti fondamentali che negli Stati Uniti, quando vedono la sanità italiana, non quella tanto europea che funziona molto meglio, infatti quelli del Trentino Alto Adige vanno a Innsbruck, vanno, voglio dire, in Austria a curarsi, non rimangono in Italia. Quindi il problema è che già a Bolzano e Trento funziona molto meglio che a Catania, a Palermo e così via, o a Napoli o in altri posti. Per cui il punto qual è? Quando gli americani vedono la sanità italiana con i costi iperbolici della sanità italiana, con i servizi scarsissimi della sanità italiana, non dovete dimenticare tutti che qui quando si fa una richiesta si danno 6 mesi per ottenere una visita in questo paese. Grazie Antonio, ha esposto il suo punto di vista. Attento che si espone così all'accusa di confrontare cose molto diverse. La mia ultima domanda per Michele Boldrin e poi vado rapido da Perotti e Molteno è questa: dal punto di vista del meccanismo concreto, manifestazione dei costi e dei sussidi, delle nuove richieste, dei contributi, tasse eccetera, nella sua esperienza negli Stati Uniti, che cosa avverrà? Al di là del giudizio dei politico, che non chiederei a Boldrin, i repubblicani sappiamo come la pensano, i Tea Party sappiamo come la pensa rispetto a Obama, ma quello è un giudizio politico, ma invece nella concreta predisposizione dei tempi di emersione, di tempi, dei costi aggiuntivi e del meccanismo diretto che verrà chiesto a cittadini e imprese. Nella sua esperienza, gli Stati Uniti come reagiranno e in che tempi reagiranno e questo come potrà cambiare? Cambierà davvero questa riforma o è un treno che oramai, una volta partito e superato l'ostacolo che era rilevante del voto al Congresso, sancisce davvero un cambio di pagina da cui non si torna indietro, secondo te? Non lo so davvero, questa è una domanda veramente difficile. Se posso permettermi, ti invito uno a chiarire che la gente deve smettere di dire queste bugie assurde sulla situazione americana quando ne è un momento, spiegalo, punto numero uno. Punto numero due, vorrei anche aggiungere in tutto questo che il comportamento del Partito Repubblicano è stato possibilmente peggiore di quello del Democratico, nel senso che sono riusciti a far di questa riforma una cosa ancora peggio di quello che avrebbe potuto essere, facendo saltare tutta una serie di cose almeno semidecenti che c'erano dentro. Detto questo, cosa succederà? Guarda, non lo so, questa è una questione molto controversa. Purtroppo l'intero argomento si è ideologizzato e le persone dei vostri ascoltatori in Italia lo riflettono a un livello mostruoso. Questo è parte colpa dei repubblicani, parte colpa, l'hanno scelto entrambi di andare in questa dimensione. È una questione che in realtà è una questione tecnica estremamente complicata, nella quale non ci sono soluzioni ovvie. Io personalmente sono tra l'altro a favore di un servizio pubblico minimo, ma questa è una questione laterale rispetto alla discussione che stiamo avendo. Si è trasformato in una battaglia ideologica, per cui non so come questo si implementerà nei prossimi anni. È molto facile che 3/4 delle provisions che ci sono nel bill approvato l'altro giorno vengano bloccate per canali giudiziari. Questa è una cosa che probabilmente l'effetto di questa riforma non è ovvio, che lo vedremo nel primo periodo, almeno nel primo term di Obama. Già ci sono 13 stati che stanno cercando di fare di bloccare l'applicazione dei loro stati, quindi francamente non lo so. Credo che l'unica cosa che faranno sarà questa estensione di Medicaid, questa credo sia piuttosto diretta. La costruzione per esempio di questi exchange, proprio sul New York Times l'altro giorno c'era un articolo molto interessante. Invito tutti a leggere il New York Times, specialmente quelli che hanno opinioni strane sulla sanità americana. Il New York Times da questo punto di vista, nonostante sia un giornale democratico, ha fatto un servizio enorme di chiarimento. Ci sono tantissimi articoli che spiegano i limiti di questa cosa. C'è uno interessante del signore che ha provato a montare l'exchange in Texas alcuni anni fa ed è fallito. Quindi tutti sono molto perplessi rispetto a questo. Credo che bisogna assolutamente togliere questa patina ideologica da questo dibattito, che altrimenti è folle. E noi ci proviamo. Veramente, da nessuna parte è deludente. E noi ci proviamo con il nostro modesto contributo. Però l'Italia è molto tribalizzata quasi su tutto oramai, cioè è un problema anche italiano, molto italiano. Ah, però ti faccio la stessa domanda. Si aspetta una strada che oramai imboccata cambia, ed è un cambio anche di politico, come abbiamo detto, dell'amministrazione, dell'opinione pubblica, o come Boldrini bisogna essere un po' prudenti, perché ci sono tanti aspetti che non si sa se poi davvero riusciranno a entrare in vigore e con che effetti? Che si aspetta però? Sì, la risposta prima a quella mi chiede è difficile dirlo. Obama secondo me ha scommesso, l'ha anche detto, sul fatto che la reazione tra qualche anno sarà la stessa a quella della Social Security negli anni 30, cioè negli anni 30 ci dimentichiamo che l'introduzione della Social Security, delle pensioni, fu avversata dalla enorme maggioranza della popolazione. Per poi tradursi negli anni in un enorme successo, in realtà. Soprattutto i repubblicani, che da pochi anni fa l'hanno considerata assolutamente intoccabile. La cosa è un pochino diversa perché tutti, più o meno con qualche fortuna, diventiamo anziani, mentre non tutti abbiamo bisogno di assicurazioni contro malattie catastrofiche. Però io credo difficile che, se la cosa comincia a funzionare, tra qualche anno ci sia qualche politico di livello nazionale, non qualche pazzoide di livello statale, che si mette in testa di voler togliere l'assicurazione ai bambini, perché questo è quello che poi apparirà in una campagna elettorale. Secondo me questo è quello su cui diventerà un tema delicato passare per qualcuno che la vuole smontare. Molteddo, è un cambio, ha ripreso l'onda politica che aveva perso un po', secondo te, Barack? Indubbiamente sì, questo lo dicono un po' tutti i commentatori, anche i commentatori ostili a Barack Obama. Credo che si sia aperto un circolo virtuoso adesso per lui, e se ha l'abilità di cavalcare l'onda favorevole, proprio per quello che è stato detto fino adesso, che questa questione ha un profilo ormai più politico e perfino ideologico, ancor prima che di merito sulle questioni appunto di conti e di compatibilità. Proprio per queste ragioni io credo che, siccome Barack Obama, come riconoscono tutti, è un abile politico, saprà mettere in movimento appunto una fase, un circolo virtuoso a suo favore, e quindi anche la stessa riforma sanitaria a quel punto entrerà un po', diciamo, nella cultura, diciamo, politica americana, e penso che questo sarà, diciamo, che la metterà in un'agenda politica diversa da come è stata, esatto, collocata in questo periodo. È diverso senza dubbio dall'America che aveva trovato, e questo non c'è dubbio. Ci siamo sforzati oggi con Michele Boldrin, con Roberto Perotti, con Guido Molteddo di parlare di molti aspetti di questa riforma, di cui io sono certo, e devo dirvi anche orgoglioso, serviamo a questo, che voi non avevate letto e sentito parlare nella grande attenzione che pure era stata molto forte sui media italiani. E questo è il nostro spirito. Chi manda messaggi adesso dicendo: ah, come, ci dite solo alla fine che i repubblicani fanno schifo. Vedete, qui non è che abbiamo parlato dal punto di vista dei democratici, dal punto di vista dei repubblicani, ma abbiamo tentato di spiegare argomenti concreti, i numeri di come funziona davvero, se sia giusto intervenire in questo o in quel modo, quali saranno le conseguenze, che cosa vuol dire rispetto al sistema italiano. Insomma, un po' di attenzione sulle cose concrete. Abbiamo sforato sui tempi, mi stanno minacciando praticamente con mania, con armi da fuoco dall'altra parte del vetro, sono in regia. Grazie regia a Peter Bescapè e Alessandro Marco Tulli in redazione. L'appuntamento a domani, linea al giornale radio.